Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, mancano solo 3 giorni alla tanto attesa apertura della tratta ferroviaria ad alta velocità Bologna-Milano. Tanto attesa da me e da chi come me risiede a Bologna, con tanto di famiglia, e lavora, come precaria, a Milano. Mi sembrava a portata di mano un cambiamento di vita, il fatto di poter fare la pendolare anziché tornare a casa solo il venerdì. E anche economicamente rappresentava una bella convenienza. Non so se ha presente quanto costano gli affitti e la vita a Milano. La nuova metropolitana d'Italia. Frequenze ogni quarto d'ora nelle ore di punta. Una nuova era dei trasporti ferroviari. Metropoli più vicine. Se li ricorda i titoli altisonanti sulla stampa e sul sito FS nei mesi scorsi, ma anche tuttora? Bene. Purtroppo però, quando nei giorni scorsi sono andata a verificare sul sito FS quale treno avrei potuto prendere la mattina per essere al lavoro puntuale alle 8:30, ho avuto una brutta sorpresa. Il primo treno ad alta velocità in partenza da Bologna è alle ore 8:24, con arrivo a Milano alle ore 9:29. Non credevo ai miei occhi, ma ripetute telefonate al numero a pagamento delle Ferrovie dello Stato non hanno fatto altro che confermare la mia incredulità. Hanno preferito investire sui viaggiatori occasionali Roma-Milano, anziché sugli abbonati. Sicuramente avranno fatto molto bene i loro conti, il signor Moretti e Company. Anna. Mauro Moretti, amministratore delegato di Trenitalia, per giustificare i prossimi aumenti dei biglietti ferroviari, tira in ballo gli aumenti che ci sono stati in Germania e negli altri paesi europei. Bisogna però tener presente che i servizi ferroviari in Germania e Italia non sono in alcun modo comparabili. In Germania i treni sono nuovi, puliti e puntuali. Annunci a bordo e pannelli luminosi offrono informazioni sui ritardi, coincidenze e così via. Il personale è più gentile. Ogni volta che viaggio da Bologna a Freiburg, devo aspettare di salire sul treno svizzero cisalpino a Milano per andare in bagno, perché i servizi igienici dei nostri Eurostar sono inavvicinabili. Sabrina. Se si parla di costi dei biglietti dei treni di Francia, Germania e Inghilterra, bisogna anche confrontarli con gli stipendi medi dei lavoratori e con il costo della vita di quei paesi. Barbara. Fantastico, solo un'ora di treno tra Milano e Bologna. I miei complimenti. Esattamente come dai Castelli Romani, un'area urbana di oltre 100.000 abitanti a 20-30 km dalla capitale, alla stazione Termini. Ringrazio inoltre Trenitalia per aver migliorato il servizio sulla nostra rete, garantendo una maggiore puntualità delle corse. È bastato sopprimere alcune fermate, anche in stazioni recentemente costruite, e sopprimere alcune corse. Una allora era eccessiva, capisco. Per supplire a tale servizio, Trenitalia ha messo gentilmente a disposizione degli utenti una navetta che collega le stazioni Sfigate con Ciampino, 10 km da Roma, dove potranno comodamente attendere, solo una mezz'oretta, la coincidenza per Roma. Tempo totale di percorrenza per 25 km, circa 1 ora e 20. Faccio notare che il treno, che non si ferma in queste stazioni per guadagnare tempo, spesso deve comunque aspettare il treno proveniente dalla direzione opposta, trattandosi di una tratta a binario unico sulla maggior parte del percorso. Mi piacerebbe molto conoscere il nome del genio che ha architettato questa soluzione. Non c'è da stupirsi, quindi, se le stazioni soppresse siano state disertate, per la gioia di ladri di automobili e vandali che si sfogano sugli automezzi dei poveri utenti che non hanno opzioni migliori. Federica. Caro direttore, è di questi giorni la notizia che un avvocato di Napoli è stato freddato nel proprio studio da un cliente, particolarmente risentito nei suoi confronti, per motivi professionali. Mi rendo perfettamente conto che quanto sto per esternarle possa suonare, come dire, un poco forte, ma francamente proprio non mi viene di rattristarmi per un simile accadimento. Anzi. Veda, i peggiori gaglioffi che purtroppo ho incrociato in vita mia appartenevano proprio a quella categoria. E non si tratta di un solo caso isolato, come sfortunatamente può succedere, ma di parecchi casi, davvero troppi. Ne ho viste patite di ogni. Avvocati pagati da me che si preoccupavano più di tutelare gli interessi degli avversari piuttosto che i miei. Cause subdolamente pilotate d'intesa con l'avvocato di parte avversa per non recar troppo danno alla controparte. Meglio una cattiva transazione che una buona sentenza, avevano poi il fegato di venirmi a dire. Cause rinviate all'infinito, con le scuse più incredibili, perché come questi ben sanno, causa che pende è causa che rende. Addirittura mi è toccato accertare che un avvocato, assegnatomi d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, dietro mia richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, era collega di studio della parte a me avversa. Inutile precisare che l'esposto disciplinare, conseguentemente presentato al medesimo ordine per conclamata violazione delle norme deontologiche, sia stato da questo archiviato, e senza nemmeno una riga di motivazione. E tutto ciò può succedere, sa perché? Perché questi soggetti purtroppo detengono il monopolio delle procedure legali. In Italia non puoi avere giustizia se non ti rivolgi ad un avvocato. Albi professionali, ordini territoriali, codici deontologici, tariffe minime. Quanti artifici si sono innalzati per tutelare e soprattutto far ingrassare questa categoria che a tutti gli effetti costituisce un'autentica casta di privilegiati. E non è certo un caso, visto che tra i parlamentari, quella dell'avvocato, è la professione di gran lunga prevalente. Ora le chiedo, fino a quando si sarà costretti a dover subire una situazione del genere? Fino a quando, per esempio, per recuperare un modesto credito di lavoro, si dovrà passare obbligatoriamente da un giudice, caricandosi gioco forza un avvocato sulle spalle? Dato che non esistono nell'ordinamento efficaci organismi arbitrali alternativi, opzionabili direttamente dall'interessato e dotati di effettivi poteri decisionali e cogenti, che non si limitino solo, come accade oggi, ad un approssimativo tentativo di conciliazione fine a se stesso. A questo punto qualcuno osserverà: sì, ma ci sono pur tanti avvocati onesti che svolgono con serietà ed impegno gli incarichi professionali a loro affidati, ad esclusiva tutela degli interessi del loro cliente, e non è giusto generalizzare in questi termini ed invocare un così drastico colpo di spugna. Al che risponderò: ciò è vero, ma è proprio con la fine del monopolio che soltanto l'avvocato onesto verrà premiato, vedendosi comunque riconfermata la fiducia della propria clientela, che lo preferirà al fai da te. Ma è mai possibile che all'alba del 2000 non sia concesso ad un comune cittadino di far valere da sé le proprie legittime ragioni, laddove la consulenza di un semplice laureato in legge basta ed avanza per impostare un decoroso ricorso ad un giudice? Parliamoci chiaro, il discorso si riduce ad una netta scelta di campo. È giunta finalmente l'ora di considerare quali esclusivamente prevalenti gli interessi del cittadino consumatore, ed allora si facciano subito le necessarie riforme, oppure si deve ancora segnare il passo davanti alle corporazioni di matrice medioevale, con tutti i loro privilegi che non poco penalizzano il nostro sistema socio-economico. Lettera firmata. Gentile direttore, le scrivo questa lettera per raccontarle la mia storia. Fino a 2 anni fa, la mia vita si svolgeva su binari di assoluta normalità. La famiglia, il mutuo per la casa, un lavoro impegnativo, ma che qualche soddisfazione riusciva a darmela. Purtroppo la vita non sempre va come si vorrebbe. E quindi un anno fa il matrimonio con mia moglie è finito. In questa situazione, avendo due bambini piccoli, e pur non essendo io la causa di questo fallimento, mi sono prese le mie responsabilità. Ho cercato di creare il minor numero di problemi economici alla mia ex e ho cercato di creare meno traumi possibili ai miei bambini. La situazione di chi esce da una separazione, specialmente se uomo ed onesto, in Italia è drammatica. Oltre a passare uno stipendio di mantenimento, 1000 euro, mi sono ritrovato fuori dalla casa per la quale pago un mutuo da 680 euro mensili, oltre a ritrovarmi tutti i debiti sul collo. Va da sé che la situazione per un operaio specializzato come me si va facendo difficile. Senza entrare troppo nello specifico, vorrei portare la sua attenzione all'atteggiamento delle banche nei miei confronti. Quelle stesse banche che fino all'anno scorso ti spingevano ad indebitarti con pubblicità ossessive ed in ogni maniera, carte revolving, prestiti per ogni capriccio e necessità, questi signori che per bramosia di guadagni si giocavano i capitali nemmeno fossero ad un casinò, salvo poi scaricare i rischi e la perdita sulla collettività, questi signori che si affannano ora a garantire che non trasferiranno sull'economia reale a aziende e privati la loro crisi finanziaria, questi signori, quando ho chiesto un credito, mi hanno risposto: ripassi. Mi sono trovato a dover riorganizzare la mia vita e in una situazione anche emotiva non facile mi stanno dando il colpo di grazia. Io chiedo a loro di fare il loro mestiere, dare credito. Perché sa, direttore, dove si va a finire altrimenti? Si va dagli usurai. In questo nostro disgraziato paese, purtroppo, l'usura è l'unica via d'uscita per chi attraversa delle difficoltà e diventa una via d'uscita che porta direttamente sul baratro. Simone. Ho provato ad immaginare una soluzione semplice, efficace e relativamente economica per risolvere il problema evasione fiscale. La Guardia di Finanza potrebbe creare un sito web, a suddivisione provinciale, in cui ogni cittadino potrebbe, in modo anonimo, segnalare casi di infrazione riguardo mancate ricevute o fatture da parte dei commercianti, professionisti, installatori, eccetera. In questo modo, le autorità potrebbero avere una sorta di aiuto ed effettuare controlli più mirati ed efficaci. Il successo di questo strumento dipenderà dalla semplicità d'uso del sito web, dalla pubblicità effettuata costantemente sui vari media e dall'aumento delle sanzioni. Io credo che alla sola notizia di questa operazione, magari durante i principali TG serali, si assisterebbe ad un sensibile ed immediato recupero dell'evasione, soldi usati per cominciare a ricoprire i costi sostenuti per la costruzione di questo strumento. Cosa ne pensate? Loris. Quando 4 anni fa mio figlio ha chiesto la residenza in Sicilia, nel giro di una settimana scarsa, con un'efficientissima tempestività, si è visto recapitare il bollettino del pagamento del canone RAI. Da bravo milanese, il giorno seguente era in un ufficio postale a fare la fila per pagare l'imposta, come fosse la regola il giusto. È rimasto colpito da come questa sua azione sia stata commentata, quasi al punto di suscitare ilarità, dalle persone che lo conoscevano, perché è sembrato un comportamento precipitoso, quasi di sottomissione allo Stato, in luoghi dove il canone lo paga solo chi è fesso. Forse è vero, ma io allora sono contenta che mio figlio lo sia. Come mi piacerebbe però pagare meno e far pagare tutti, anche quelli che fanno i furbi, sulle spalle dei cittadini corretti. Giulia. Nelle lettere al direttore sentiamo spesso parlare di valutazioni della qualità e della produttività del lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione. Siamo 23 tecnici a tempo determinato che lavorano nei 3 centri nazionali per la biodiversità forestale di Verona, Peri e Pieve Santo Stefano, strutture del Corpo Forestale dello Stato, e vorremmo portare alla conoscenza di tutti la nostra situazione. Nei nostri laboratori ci occupiamo di ricerche sulla conservazione degli habitat forestali e di specie protette, degli effetti dei cambiamenti climatici sulle foreste, della conservazione del germoplasma di specie vegetali minacciate. Applichiamo l'esperienza di diversi anni di lavoro a 130 riserve naturali statali e a reti di monitoraggio internazionali. In 6 anni abbiamo contribuito alla realizzazione di 10 monografie e molti di noi pubblicano su riviste internazionali. Apparteniamo ad una struttura innovativa e flessibile. Con i progetti Life Natura abbiamo portato in Italia fondi europei in un settore difficile come quello della conservazione della natura. Sinora pensavamo di essercela guadagnata tutta. Il 18 dicembre i nostri contratti, finora sempre rinnovati dall'amministrazione, sembra non saranno più rinnovati. Da quella data ci troveremo pertanto improvvisamente senza lavoro e senza alcun ammortizzatore sociale. Non sappiamo ancora nulla. Sappiamo di certo, invece, che la nostra mancanza impedirà la regolare prosecuzione di molti progetti in corso e il rispetto degli obblighi previsti dalle direttive comunitarie, con conseguenti inadempienze per lo Stato italiano. Il 1 gennaio 2009 incombe e sappiamo che molto probabilmente, dal 18 dicembre in poi, saremo dimenticati. Abbiamo poca voce, ma ancora fiducia nel ruolo della politica. Chiediamo perciò che la nostra produttività sia valutata oggettivamente e su questa base di poter continuare a lavorare nei nostri centri nazionali. Attendiamo. I tecnici a tempo determinato dei centri nazionali per la biodiversità forestale di Verona e Peri, provincia di Verona. Egregio direttore, questa crisi, a mio avviso, può essere paragonata ad una guerra mondiale combattuta senza armi, apparentemente. A pagare saranno sempre gli stessi. La povera gente che si è mandata al fronte da persone senza scrupoli. Vedi subprime, bond argentina, parmalat, eccetera, eccetera. Queste stesse persone adesso si sono ritirate nelle retrovie e si godono i frutti delle loro speculazioni, pronti a ritornare sul campo di battaglia appena tutto sarà finito. In Italia, poi, dopo l'introduzione dell'euro, I prezzi sono andati alle stelle, mentre gli stipendi della povera gente sono rimasti fermi. Non serve a niente l'invito del Presidente del Consiglio a consumare di più. Non ci sono i soldi, non c'è la volontà, il mercato è saturo. Antonio, provincia di Vicenza. La lotta fratricida fra le procure di Catanzaro e Salerno rappresenta la visione di quell'intreccio perverso tra politica, mafia ed economia che ci perderà tutti. Il Sud Italia appare ormai chiaramente un territorio dove l'illegalità è la norma, un territorio che un po' alla volta si sta conquistando tutta l'Italia. Leonardo Sciascia scrisse: «Speravo che la Sicilia si italianizzasse, ma con orrore assisto alla sicilianizzazione dell'Italia». Edoardo. Caro Edoardo, no, non voglio crederlo. Non voglio credere che l'illegalità e la criminalità abbiano vinto e che sia ormai perduta la battaglia per una democrazia compiuta anche nelle terre del Sud. Non voglio crederlo perché la criminalità è comunque una piccola, anche se agguerrita, minoranza. Non voglio crederlo perché lo Stato è ancora presente con il silenzioso lavoro delle forze dell'ordine, di gran parte della magistratura, di autorità e funzionari pubblici. Certo, gli scambi di accuse e di indagini tra le procure non sono un bello spettacolo, così come non è un bello spettacolo la voglia di protagonismo e la ventata di giustizialismo. Ma è superando questi problemi che dobbiamo ripartire per ridare dignità allo Stato e a tutti noi cittadini. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.